Storiacce di Raffaella Calandra. Viva di Rimini, è caduto il ponte qua davanti a noi, è una macchina sotto. Questa è l'Italia, guardate, il ponte è caduto davanti a noi, le persone dentro la macchina e qua non viene nessuno. Questa è l'Italia, commenta un autista poco dopo che il ponte sulla 14 gli è crollato davanti agli occhi, schiacciando un'auto con i suoi due passeggeri. E questa è davvero l'Italia, viene effettivamente da chiedersi un po' sconsolati. L'Italia dove abbiamo visto viadotti crollare, voragini aprirsi su strade ad intenso traffico, ponti sbriciolarsi al passaggio di camion, in mezzo a rimpalli di competenze, allarmi inascoltati e responsabili non sempre individuati e puniti. E allora, dopo un viaggio già di un'intera settimana di Radio 24, in questa Italia, ora ci avventuriamo in questa puntata di Storiacce, un'Italia dove si può morire anche perché ti cade un ponte in testa. Diciamo che ultimamente ci sono stati tre crolli da distanza ravvicinata, sono tre crolli completamente diversi. L'ultimo ponte di Fossano che è crollato è stato costruito 25 anni fa. Il ponte di Lecco è crollato nel mentre stava transitando un carico eccezionale. Le foto di quel ponte, delle parti crollate, delle parti sopravvissute del ponte, dimostrano che quel ponte non aveva anomalie di progetto, non aveva anomalie di manutenzione, non c'era uno stato di degrado particolarmente grave. Non è crollato per vetustà, da come è crollato, per problemi di degrado incredibilmente anticipato, questo non c'è dubbio. L'ultimo è quello di Fossano, poi quello di Ancona è crollato mentre stavamo facendo manutenzione lì, un palese errore durante le lavorazioni. Ci fu un tempo in cui, mentre si viaggiava, soprattutto in autostrada, oltre che davanti si guardava anche un po' in alto, ogni volta che ci si avvicinava ad un cavalcavia, perché ci fu un tempo, forse lo ricorderete, in cui da quei ponti si lanciavano anche sassi, che avevano anche ucciso inconsapevoli passeggeri. Oggi invece siamo in un tempo in cui in alto si guarda, ma per sperare forse che i ponti non ci cadano addosso? Da Lecco a Termini Marese, da Ancona ad Agrigento si indaga su cedimenti che hanno ucciso già tre persone, hanno interrotto intere aree e lasciato increduli e disorientati tutti noi, tra errori umani, scarsa manutenzione e liti sulle responsabilità. Prima di Rimini è caduto il ponte qua davanti a noi, è una macchina sotto, guarda la macchina sotto con le persone e nessuno va ad aiutarlo. No, sono maschi e femmine, ditemi. Ma dimmi com'è la situazione. Dite si sta a rete con chi tu, non Emilio. Errore umano durante lavori di manutenzione. Cedimento per degrado avanzato, crollo al passaggio di un trasporto eccezionale. Ancona, Fossano, Lecco. Da tecnico Antonio Brencic, docente di scienze delle costruzioni alla Facoltà di Ingegneria di Genova, fa una sintesi in una conversazione col nostro Andrea Ferro sulle possibili ragioni di tre crolli. Crolli che sono poi ciascuno una storia a sé invece nelle indagini per arrivare ai responsabili. Indagini il più delle volte complessi per le componenti tecniche, per la difficoltà nell'accertamento delle proprietà, ad esempio, per regolamenti e regole. Un mix che fa sì che non sempre si possano stabilire i responsabili e che tutto assai facilmente venga bloccato, insieme alla richiesta di risposte soprattutto dei familiari delle vittime. Ad Ancona in procura sperano di riuscire, anche forse prima dell'estate, a chiudere un'indagine che secondo indiscrezioni vedrebbe già 10 persone iscritte nel registro degli indagati per il cedimento di un viadotto mentre gli operai stavano lavorando sull'innalzamento. L'indagine sembra procedere spedita verso l'errore umano, anche se sarebbe venuto fuori che il cavalcavia si era già disallineato, un'anomalia questa che avrebbe forse dovuto generare allarme, ma piano piano il quadro si sta componendo sulla scrivania del PM, Irene Bilotta, convinta che le risposte alle indagini come questa sua debbano servire anche per evitare che simili sciagure costino la vita ad altre persone. Sono venute già fuori molte cose. È possibile acquisire ulteriori riscontri. Mi sembra di capire che in questa indagine c'è una componente molto importante, proprio la componente tecnica. Cioè, dal primo giorno ho chiamato sul posto un ingegnere e sono stata fortunatissima a trovare il migliore del posto vicino alla zona che è venuto subito. Quindi anche sotto questo aspetto sono stata insomma fortunata, diciamo, l'indagine è stata fortunata perché nell'immediatezza è intervenuto il mio consulente. Certo. E quindi è per questo motivo che abbiamo potuto riaprire il traffico all'autostrada, altrimenti sarebbe rimasta chiusa. accertare le cause, serve proprio per tutelare, insomma, il cittadino, l'utente della strada, come prima cosa, evitare che gli capiti. Anche perché un'autostrada come la 14 è una strada trafficata, insomma, sia da traffico locale che, insomma, su per percorrenza lunga. È le arterie principali d'Italia, sì. Per cui, come dire, vista dall'esterno è stata una cosa terribile, clamorosa e pazzesca quella che è successo. Quindi accertare che cosa sia avvenuto significa anche capire e fare in modo che questa non si ripeta, giusto? Certo, io penso che sia una delle, insomma, degli scopi dell'attività giudiziaria anche, no? In generale, di certo. Di reprimere, ma anche di prevenire. Rischia di tagliare la Sicilia in due, certamente avrà durissime ripercussioni sui collegamenti tra Palermo e Catania, il cedimento del pilone lungo l'autostrada A19 tra Scillato e Tremonzelli. È divisa in due parti, la Sicilia lo è rimasta davvero e per un lungo difficile anno, per una regione per di più già con profonde carenze e difficoltà di collegamenti. E allora lì a Scillato il troncone dell'autostrada rimasto in piedi è ancora come sospeso nell'aria. Per mesi e mesi gli automobilisti hanno dovuto inerpicarsi su statali tra le Madonie per andare da Palermo a Catania, ossia tra le due principali città dell'isola. E per quale ragione? Una frana che nessuno aveva provveduto a poter contenere per tempo, o per colpa di progettisti e direttori dei lavori, o ancora sono responsabilità di chi ha realizzato l'opera o di chi avrebbe avuto il compito di gestire il dissesto idrogeologico? Il fascicolo è ancora contro ignoti, ma entro un mese l'indagine è affidata al procuratore Alfredo Morvillo, fratello di Francesca, la moglie di Giovanni Falcone, dovrebbe essere chiusa. Anche perché poi lui passa alla guida della procura di Trapani. Ma storie come queste pongono anche un tema complessivo della tenuta delle nostre strade, tanto delle grandi arterie quanto e soprattutto delle piccole strade locali. Mancano assolutamente le risorse, alcune volte mancano risorse anche, per esempio a seguito del riordino delle province con la legge del Rio, anche riguardo alle strade provinciali, quindi c'è una sorta di impoverimento adesso riguardo a queste infrastrutture, con la perdita di sicurezza di molte strade che sono poi soprattutto strade che servono anche a territori turistici anche nel centro sud Italia, quindi questa mancanza di risorse diventa una perdita anche in infrastrutture. Tanti problemi a cominciare dalle famigerate buche. E da voi le strade come sono messe? Da qui ripartiamo nella seconda parte di Storiacce. Fateci avere anche le vostre testimonianze. Storiacce. Arrivano su una mia segnalazione di un grosso calcinaccio che è caduto dal sottostante passaggio, che solo per fortuna non ha colpito una coppia di genitori con un bambino. Ci sono i ponti caduti, dunque, e ci sono quelli che rischiano di cadere. E nel frattempo, casomai, vengono puntellati pure con un albero, come è successo proprio a Ponte di Legno, in provincia di Brescia, dove, dopo varie proteste del comune, guidato dal sindaco Aurelia Sandrini, l'ANAS ha mandato dei tecnici per puntellare il cavalcavia sulla statale 42 e lo hanno fatto con un tronco. E il timore dell'amministrazione è che questo ponte possa essere il prossimo a cadere. Questo tronco è stato messo da una ditta incaricata da ANAS, in quanto io ho segnalato che secondo me c'era del pericolo, perché il sottopasso mi sembrava molto ammalorato. Per la verità sono quasi 3 anni che scrivo ad ANAS di intervenire su questo sottopasso ed altri 2 o 3 che sono in condizioni, non dico così brutte. Il giorno dopo mi ritrovo gli operai dell'ANAS che stanno lavorando e stanno mettendo questo appunto tronco d'albero come puntello. Se mi mettono un puntello, sia pure un puntello che fa ridere, però io mi preoccupo. La foto del tronco d'albero usato come puntello fece il giro dei social network e indignò tutti. Come ovunque abbiamo visto, anche con una certa incredulità, la foto del ponte di Fossano nel Cuneese imploso su un'auto dei carabinieri, per fortuna senza nessuno a bordo. Esito diverso dunque, ma forse solo per buona fortuna, rispetto al ponte della 14 che ha invece ucciso una coppia, o rispetto a quello di Lecco che ha ceduto al passaggio di un camion e ha così ammazzato un pensionato, Claudio Bertini. L'indagine affidata al PM Nicola Preteroti ha portato già all'iscrizione nel registro degli indagati di 3 nomi, 3 ingegneri. Ma c'è una domanda che la procura, guidata da Antonio Chiappani, si pone. Quella strada doveva essere chiusa, viste le segnalazioni di cadute di calcinacci e visto che quella è un'opera già nata vecchia, dal momento che fu costruita con tecniche già datate negli anni 60, come è scritto in un'ispezione del Ministero dei Trasporti? Dal punto di vista tecnico, quando si tratta di manufatti che risalgono, come nel nostro caso, a decine e decine di anni fa, uno dei problemi principali è ritrovare i progetti. Cioè riuscire a ricostruire materialmente la progettazione e l'esecuzione. Cioè la storia di quell'opera. Sì, esatto, ricostruire la storia di quell'opera, ma anche la storia amministrativa di quell'opera. E poi anche la storia dei materiali usati e delle progettazioni. Il secondo punto poi è ricostruire quella tipologia di ponte, che cosa significava dal punto di vista della portata, dal punto di vista della sicurezza, dal punto di vista anche dell'ingegneristica. Infatti non ne fanno più come quel ponte di Viannone, era un sistema a sella che non è più stato poi successivamente usato. E poi ricostruire anche tutto il discorso della manutenzione. Che è un tema, mi sembra di capire, centrale, visto che c'erano state anche già segnalazioni, diciamo, di crepe. Un tema centrale, ma purtroppo qui, nel nostro caso, c'è stato il passaggio a diverse autorità. Questo ha creato qualche problema particolare a ricostruire, nel senso di dire che questo è un ponte senza padri, è un orfano. È un ponte di cui nessuno vuole assumersi, diciamo, la paternità, la responsabilità, a maggior ragione ora che è crollato ed è crollato su una persona. Che se ne siano anche dimenticati lungo la strada che esisteva questo ponte, quando c'era da fare manutenzione, cioè non era considerato. Quindi c'è tutto il problema dello studio del materiale, che è quello che stiamo facendo adesso. Ma questo è un problema che è importante, perché quel materiale è stato usato anche in tanti altri ponti. È come se fosse di nessuno. Non era dei comune, non era più della provincia di Como, perché nel frattempo c'era la provincia di Lecco. Dicono che non è mai stata fatta dalla provincia di Lecco e dicono anche che non è dell'ANAS, e quindi non lo so. Ma voi avete esaminato anche se ci sono o meno altri ponti analoghi che sono tuttora aperti? Beh, perché a questo punto si pone. Un ponte analogo è già stato chiuso qui. E poi a noi serviranno tutte le analisi, chiamiamolo così, merceologiche. Il discorso concreto è questo, la difficile ricostruzione anche della paternità. La paternità del ponte e come è stato fatto. Però innanzitutto la prima cosa, diciamo, anche evitare che se questi ponti rappresentano un pericolo, evitare che altri ponti in situazioni analoghe. Abbiamo dato un incarico peritale proprio ad un professore che è qui dell'Università di Lecco. Tutta l'attività che facciamo adesso, domani potrà essere materia di studio anche universitario. Insomma, noi speriamo che questo, che il morto sia servito almeno a qualche cosa. Almeno ad evitare che ce ne possano essere degli altri. Di sicuro quella della sicurezza e manutenzione delle strade, soprattutto secondarie, è un tema che si scontra drammaticamente con la carenza dei fondi, soprattutto dei comuni, come denuncia il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto e per di più delegato dell'ANCI per i lavori pubblici. L'ha intervistato Andrea Ferro. Sì, noi chiediamo sicuramente molte risorse in più che possano riguardare soprattutto la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ma anche situazioni di pericolo come il dissesto, la vulnerabilità degli edifici. Oltretutto chiediamo pure che ci possano essere degli strumenti anche legislativi che consentano poi agli enti locali di impiegare queste risorse nel modo più semplificato e veloce possibile. Quindi significa che molte strade di fatto sono insicure per questi motivi? Sì, molte strade sono insicure e molte volte i comuni hanno anche delle difficoltà ad operare in un quadro di riferimento legislativo che non semplifica le procedure. Parole preoccupanti, che lasciano, devo dire, non poca inquietudine. Perché viaggiare e pensare che quelle decine di cavalcavia sotto cui passiamo in ogni nostro tragitto possano semplicemente caderci addosso, porta ognuno di noi a fare scongiuri o a porci degli interrogativi. In realtà le ragioni anche dei crolli che ci sono già stati sono varie. Eppure nei paesi che consideriamo quasi simbolo di efficienza, come gli Stati Uniti o in Germania, i ponti purtroppo crollano. Antonio Brencic, docente di scienze delle costruzioni alla Facoltà di Ingegneria di Genova. Negli Stati Uniti ne crollano due all'anno. Gli Stati Uniti sono quelli che hanno avuto i crolli dei ponti con il maggior numero di morti. C'è stato un crollo del Silver Bridge nel 69, quasi 20 morti ci sono stati, e da lì è cambiato il modo di gestire la manutenzione dei ponti. Ma crollano ponti anche in Norvegia, anche in Germania. La spina dorsale dell'infrastruttura ferroviaria italiana è stata costruita nella seconda metà dell'Ottocento. Ponti che non hanno pressoché nessuna manutenzione, che hanno visto i carichi più che raddoppiare nella loro vita e sono ancora perfettamente in grado di soddisfare quello che viene loro chiesto. Quindi non è una questione di vetustà, è una questione di manutenzione, una questione di progettazione. Solo per fare un esempio, l'ultimo ponte di Fossano che è crollato è stato costruito 25 anni fa. Guardando quello che fino ad ora le inchieste hanno ricostruito, anche se, come dicevamo nella prima parte, sono crolli che spesso restano impuniti e sono indagini che spesso si bloccano per tecnicismi e burocrazia, il quadro che però emerge dalle nostre strade non è affatto rassicurante. E non è di sicuro recente, vero Andrea Ferro? Tu con Autotrasporti per Radio 24 queste strade le percorri in lungo e largo. Allora, la fotografia, diciamo così, potremmo dire, datandola sul tempo, è ancora un po' in bianco e nero. L'impianto, la spina dorsale della nostra rete viaria infrastrutturale è stata concepita in quell'epoca. Significa quindi che sono passati mediamente 50 anni per le autostrade, chiaramente si tratta di una rete a pedaggio, quindi ci sono le risorse. AISCAT ha calcolato che mediamente ogni anno, è una media degli ultimi 15 anni per essere più precisi, le varie concessionarie autostradali tutti insieme hanno investito qualcosa come 70 milioni nella manutenzione ordinaria. ANAS ha completamente invertito, diciamo così, la tendenza degli ultimi decenni, ha deciso di destinare il 50% delle risorse alla conservazione dell'esistente, quindi alla manutenzione. La nota dolente riguarda invece le reti locali, quindi comunali e provinciali. Se calcoliamo nel complesso, la rete italiana stradale è lunga circa 500.000 di chilometri, ma buona parte di questo 500.000 di chilometri sorge in ambito comunale o provinciale. Certo, davanti a notizie di crolli di ponti che uccidono, colpisce ancora di più la maestria e la bellezza di certi ponti romani in piedi ancora oggi, perfetti, dopo millenni. Ma delle strade nell'antichità erano maestre, come ci racconta Giorgio Geranò, professore all'Università di Trento e voce delle nostre mitiche storiacce. Mitiche storiacce. I romani, si sa, erano bravissimi a costruire ponti. E uno continua a chiedersi com'è che i ponti romani sono durati secoli, mentre i cavalcavia costruiti l'anno scorso cadono a pezzi. Certo, perché i romani erano bravi come ingegneri, perché l'amministrazione dell'impero funzionava bene, ma forse anche perché prendevano tremendamente sul serio la costruzione di un ponte. Nella mentalità religiosa degli antichi c'era l'idea che costruire ponti, specie sull'acqua, fosse un atto sacrilego, una violenza inflitta alla natura e ai luoghi. Quell'atto doveva perciò essere sacralizzato, accompagnato da un rito. Il pontifex, da cui la parola italiana pontefice, doveva essere in origine appunto il sacerdote incaricato di costruire i ponti secondo tutti i crismi. L'idea del ponte come sacrilegio resta però anche nel folklore. In tutta Italia ci sono i ponti del diavolo o i ponti delle streghe. Si pensa spesso che il diavolo muratore, costruendo un ponte, chiedeva gli venisse dedicata la prima anima che lo attraversava. Per questo, inaugurando un ponte, per beffare il diavolo, si faceva passare per primo un animale. Ponti simili ce ne sono ovunque. Uno è quello di San Lupo, nella provincia di Benevento, dal quale in tempi lontani sarebbe stata gettata nel fiume una strega, poi trasformatasi in una sorta di demone delle acque. L'anno scorso alcuni abitanti della zona hanno lanciato un allarme sulla stabilità di questo vecchio ponte. Anche i ponti del diavolo non sono più quelli di una volta. Come sono le strade nelle vostre zone? Se vi va, mandateci foto o testimonianze sulla pagina Facebook di Storiacce oppure su Twitter all'account Raf Calandra. Se volete scriverci invece, la mail è storiacce@radio24.it. Grazie in regia a Filippo Aureggi. Per riascoltare invece questa puntata, come tutte le altre, il sito è radio24.it. Ciao a tutti, da Raffaella Calandra.